le bestemmie del confessore. C'è chi accende candele e incensi e chi ha messo il riparo il cuore da un amore triste. Lui era solo una coincidenza, nel buio lurido di un parcheggio, perdere l'anima e l'innocenza. Il giorno non esiste, il sole non esiste. E scivolare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci. Babilonia, Babilonia, Babilonia. Da una linea d'ombra guardo la gente passare, risalire dal fondo, provare a respirare e scivolare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci spente. Yeah.